是曹音。 s s z z calze calze fazzoletto fazzoletto zaino zaino zebra zebra zanzara zanzara 练习 zappa zappa zoppo zoppo calze calze pozzo bozzo tazza tazza zampa zamba zero zero azalea azalea zoo zoo la zuppa d'orzo la pulizia dell'abitazione l'addizione e la sottrazione la bellezza della ragazza il silenzio dei ragazzi una dozzina di fazzoletti un mazzo di azalee un pezzo di legno una tazza di caffè Firenze la regata storica di Venezia 谚语 proverbi la pena è zoppa ma pure arriva chi va con lo zoppo impara a zoppicare